Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Radio 24 ti aspetta a Foto Industria a Bologna per un appuntamento da non perdere. Attenzione, silenzio. Comunicazione di servizio. Nel mese di ottobre farò da guida a 50 invidiatissimi ascoltatori che in esclusiva assoluta potranno seguirmi a Bologna in un fantastico viaggio alla scoperta della Biennale della Fotografia Industriale. Come verranno selezionati i fortunati ascoltatori? Non ve lo posso dire, lo saprete solo se ascolterete Melog. So che da qualche giorno sentite questo spot, vi state facendo domande, oggi vi do le risposte. Voglio gratificare e ringraziare della loro dedizione i miei ascoltatori che riescono comunque a sentirmi attraverso questa raffica di cetrioli che ci troviamo prima dell'inizio della trasmissione, e ne avrete uno anche fra 2 minuti, quindi ho 2 minuti per spiegarvi cosa voglio fare. Dunque, c'è questa occasione di Foto Industria, un grande festival della foto industriale che sarà a Bologna dal 2 ottobre al 1 novembre. Io ho chiesto se potevo portare un nugolo di fedelissimi eroi a visitare questo festival, perché l'argomento mi interessa molto. Mi hanno detto il numero di 50, poi vedremo di capire se 50 posso portarsi dietro qualcuno o 50 chiuso, 25 con l'accompagnamento. Io preferirei 50 single, mi diverto di più, poi vedremo un po'. Dove vi porto? Vi posso portare, ho ottenuto che il giorno sarà mercoledì 14 ottobre alle 19:30. Io quel giorno lì sarò come una sorta di pifferaio magico con 50 persone dentro e andremo a visitare questo festival. Come faccio a selezionare tra di voi, che vorreste venire sicuramente a frotte, a migliaia, quelli che saranno più meritori di seguirmi in questa fantastica giornata, perché inizia alle 19:30, penso staremo 2 ore dentro la mostra, poi ci andremo tutti a vinazzare assieme, quindi sarà qualcosa che terminerà la mattina dopo, in cui dovrò prendere il Frecciarossa per tornarmene felice, contento come una Pasqua a fare Melog in diretta a Roma. Io ho pensato che voi potreste fare una foto con il vostro smartphone e mandarla immediatamente, ho la mailbox aperta quindi posso vedere, a melog@radio24.it. Ripeto, melog@radio24.it. Cosa dovete fotografare? Fotografare qualcosa di orribile che deve assumere un valore poetico proprio perché avete fatto voi la foto. Il senso della mostra è questa, è la foto, è la rassegna alla fotografia industriale. L'industria è qualcosa che deturpa il paesaggio, che si mangia la natura, che tiene dentro gli uomini come fosse dentro Metropolis, come degli esseri inanimati, come degli automi, lì fino alla loro dissoluzione, finché non restano soltanto delle vuote crisalidi di ogni umanità. Beh, in questi luoghi di tortura, però di benessere, di progresso, di meravigliose sorti e progressive dell'umanità, in realtà si può celebrare qualcosa che rappresenti la nostra contemporaneità. Se il nostro tempo è fatto anche di questo, noi invece di non ridire lo fotografiamo e lo lasciamo ai posteri con il nostro punto di vista. Qual è il vostro punto di vista rispetto a un reperto industriale? Guardate, anche la cassetta Geberit del vostro gabinetto può essere un reperto industriale per la civiltà futura, in cui non avranno nemmeno bisogno di andare al gabinetto. Qualcosa che vi fa orrore, un cassonetto. Fate una foto di un bel cassonetto, mandatemela a melog@radio24.it e io vi porterò con me a Bologna. Arriva il cetriolo, a tra poco. Melog. Cronache meridiane. Nel bacino del Sulcis, in Sardegna, la miniera più lontana dal mare è quella di Serucci. Il carbone di tipo pregiato viene avviato su un lungo nastro trasportatore alla prima fase di lavorazione. Le braccia dell'uomo sono sempre necessarie nel mondo delle macchine. Le robuste braccia di un minatore spezzettano col martello i blocchi più grossi. Frantumato, il carbone viene setacciato da un bibravaglio e va poi a finire alla laveria. Qui il minerale è lavato in vasche e docce per pulirlo dalle materie sterili. Ora il carbone è giunto ai depositi, pronto all'imbarco. Dai silos, tramite un elevatore, passa attraverso il tubo telescopico e lo stiva nel capace ventre delle navi in attesa. È 1 milione di tonnellate di minerale selezionato. 800 24 00 24, potete chiamare, intanto anticipare, prenotarvi il messaggio che manderete a melgo@radio24.it, in cui manderete la lettura poetica dell'orrore della vostra contemporaneità. Già l'ha fatto un collega, mi ha mandato l'antico microfono che sta nel logo di Radio 24. La radio è morta per celebrare se stesso e mostrare un'icona del passato, una sorta di vestigia di quello che non è più, l'antico microfono. Ma la radio per questo è risorsa, ma è risorta, ma la persona che me l'ha mandato sarà comunque con me a Bologna, per dovrà seguirmi nella ripresa audio di quella giornata, quindi non vale. Mandate i vostri reperti industriali melg@radio24.it e avrete il privilegio di essere fra i 50 fortunatissimi che saranno a Bologna con me mercoledì 14 ottobre alle 19:30. Avete sentito? Abbiamo dato un esempio di come l'orrore può diventare qualcosa di tragicamente poetico. È un esempio ispirato al libro Invisibile, la tua vera patria, di Giancarlo Liviano d'Arcangelo, che è un reportage dal declino, luoghi e vite dell'industria italiana che non c'è più. Giancarlo Liviano d'Arcangelo, buongiorno. Buongiorno a voi. Oggi ci sei utilissimo, perché quello che è stato il tuo studio nel racconto del reperto industriale diventa l'elemento animatore di questa nostra sorta di gioco. Vogliamo coinvolgere i nostri ascoltatori a lasciare reperti poetici dell'orrore. È un po' il senso che ispira il tuo libro. Tu hai fatto una rassegna di racconto dei grandi cimiteri, delle grandi industrie del passato. Hanno delle storie fantastiche, dinastie che allevavano i loro operai come si allevano dei figli, di cui rimangono soltanto degli scheletri di ferro arrugginito. Eppure il valore tragico della nostra storia, in un'immagine che ha un senso, conserva la sua ragione d'esistere. Beh, assolutamente sì, assolutamente sì. Io credo che i villaggi industriali, tutto il paesaggio industriale, di cui ci sono enormi testimonianze in tutto il paese, a partire dalle grandi aree industriali del nord, intorno a Milano e tutta la Lombardia, fino alla Sicilia, siano veramente un enorme miniere di significato, proprio perché attraverso la mera osservazione dei reperti, di quello che resta, delle carrucole, delle torri, dei casermoni, delle linee di produzione, si riesce veramente a ricostruire un po' la storia industriale di questo paese e tutte le fasi in cui si è alternato il suo capitalismo. Esiste, diciamo, intanto tu hai fatto una sorta di topografia di quelli che sono i luoghi che hanno un maggior significato nella storia della nostra industria. Ecco, esiste un possibile percorso nel nostro paese? Intanto continuo a chiedere agli ascoltatori che vorranno venire a Bologna di mandarmi le loro foto. Io penso che potrete fare in piccolo quello che hanno fatto i grandi fotografi in questa mostra di Bologna, che noi seguiremo assieme, almeno seguiremo noi 50 più me 51, se avrete modo, capacità e perizia nel mandarmi la foto giusta, di dare una sorta di icona che immobilizzi il significato di quello che è stato, ma non nella realtà di quello che è stato, di lavoro, di alacrità, di benessere, ma anche di sofferenza, anche di standardizzazione della propria vita. Ecco, qual è questo percorso, Giancarlo? Beh, il percorso io lo farei partire dalla Sicilia del 1800, le prime decadi del 1800, laddove per particolari congiunture internazionali si era creata una situazione molto molto simile all'attuale neoliberismo. E lì c'è un caso straordinario come quello della famiglia Cresci, della famiglia Florio, che dal nulla, da una semplice barca, una semplice imbarcazione di pescatori e venditori di pesce o ciarpame, è diventata la più grande famiglia di Sicilia e d'Italia, con una donna, Franca Florio, che era invidiata dai più grandi rami del regno, per poi avere, come al solito, come sempre accaduto in questi casi, un apice, un momento incredibile dove la storia familiare aveva raggiunto dei picchi assoluti di ricchezza e poi il crollo quasi verticale. Ecco, io volevo chiedere un attimo anche agli ascoltatori, visto che mi piace anche avere partecipazione, di chiamare all'800240024 e farò equivalere una loro descrizione dettagliata che ci faccia sognare di un luogo industriale, un paesaggio industriale che loro hanno visto, che hanno memorizzato, alla foto. Quindi potrete anche partecipare se chiamate all'800240024 e riuscirete a sorprendermi con una descrizione che mi faccia vedere il reperto industriale, il paesaggio che avete davanti alla vostra finestra, che vi assilla ogni giorno, vi mette tristezza, ma se voi lo raccontate vedrete diventerà qualcosa di bello. Un tuffo nel passato di 100+ anni, la visita al villaggio Crespi d'Adda, villaggio operaio di fine 800, il luogo ideale per il lavoro e per viverci, secondo la concezione dei Crespi, famiglia di industriali, proprietari di questo storico opificio tessile e inventori dal nulla di questa cittadella operaia riservata ai soli dipendenti della fabbrica. Nel villaggio operaio di Crespi d'Adda c'era tutto. c'era e c'è ancora la scuola. Nella scuola tutto era fornito dalla fabbrica, dai libri alle penne, dai grembiuli allo stipendio degli insegnanti. C'era l'ospedale e ora c'è il presidio medico. Nel mondo perfetto della famiglia Crespi, industriali, politici e già proprietari del quotidiano Il Corriere della Sera, loro si erano riservati un vero e proprio feudo, vivendo nel loro castello privato, come i signori del Rinascimento, provvedendo tuttavia a tutti i bisogni dei dipendenti. Un atteggiamento non esattamente democratico. Il villaggio Crespi, Giancarlo Liviano d'Arcangelo, vediamo come riusciamo a inserirlo in questo nostro percorso di luoghi della grande industria italiana che oggi rappresentano i luoghi del ricordo. E ricordo anche ai nostri ascoltatori, velocizzate il vostro intervento, avete il tempo di questa trasmissione, in fondo per chi sta a Bologna o anche a breve distanza da Bologna è una grande occasione di attraversare in 50 con una guida d'eccellenza che non sarò soltanto io, qualcuno la rappresenterà, questo percorso attraverso la foto industriale. Villaggio Crespi era un luogo veramente perfetto, un perfetto esempio di visione ambivalente, laddove l'elemento capitalista era entrato a tutti gli effetti per convogliare le forze lavoro del luogo in un progetto più grande, appunto, che era il cotonificio. Devo dire che una cosa che mi ha colpito maggiormente a Villaggio Crespi, che oggi è diventato patrimonio dell'UNESCO, è che il primo sciopero in assoluto che ci fu lì ai cotonifici non riguardò le condizioni di lavoro, che comunque erano veramente molto rigide, con grandi possibilità di ammalarsi per colpa dell'aria respirabile che si ha nelle linee di produzione quando si lavora il cotone, ma fu fatto perché non c'era all'epoca un cimitero per i cari e le famiglie che si erano trasferiti nel villaggio. La risposta del padronato fu una risposta, devo dire, un po' dadaista, nel senso che fu costruito effettivamente questo cimitero, e il cimitero oggi ha una forma particolare perché c'è anche il grande sarcofago di famiglia, e si arriva a Villaggio Crespi, c'è questo totem gigantesco che sembra un monumento azteco, che è la tomba di famiglia, e poi tutto intorno delle piccole tombe bianche che ricordano un po' i cimiteri della Normandia, che sono invece le tombe degli operai, proprio per ribadire questa soggezione eterna del padronato sulla classe operaia anche nell'aldilà. Comunque è una lettura post-faraonica di quello che poteva essere il rapporto fra l'industriale, diciamo, le sue maestranze. Ha creato il suo mausoleo, la sua eternità, somiglia un po' a quello che si favoleggia il mausoleo di Berlusconi, con le aree che dovrebbero contenere Emilio Fede, con Falonieri e tutti gli altri, poi cambieranno continuamente le assegnazioni. C'è sempre questo desiderio, diciamo, la civiltà industriale in sé cosa ha mantenuto delle liturgie dei grandi centri del potere, delle cattedrali, delle regge, dei palazzi, dei monumenti, di tutte le iconografie del sacro, secondo te? Beh, secondo me ha mantenuto tutto quello che poi in termini personali i patriarchi illuminati sono riusciti a mantenere. Mi viene l'esempio di Ivrea, di Adriano Olivetti, che essendo un patriarca illuminato era riuscito a Ivrea a creare delle linee di produzione splendide, fatte da architetti di altissimo livello e che ancora oggi rappresentano un'eccellenza in termini di architettura industriale. Questo non sempre è avvenuto, l'Italia è piena invece di capannoni molto recenti, il cui ciclo di durata proprio di vita è stato di pochissimi decenni, di pochissimi anni, e sono probabilmente il vero orrore di quello che lascia questa civiltà industriale. Ce ne sono veramente tantissimi. Io quando giravo soprattutto in Lombardia, il paesaggio industriale non illuminato come può essere anche Villaggio Crespi, che invece è molto bello, era un elemento che davvero disturbava il paesaggio. È singolare che oggi esiste addirittura la trash art in questa mostra di Bologna, almeno così mi ha detto il direttore artistico, poi lo vedremo. Ci sono fotografi che hanno fotografato con lo smartphone dei residui industriali, della spazzatura, e diventa opera d'arte. Noi riusciamo, attraverso questa sorta di nostro desiderio, quasi una compulsione, di trasferire in un mondo instagrammato, cioè un mondo in cui attraverso i filtri di Instagram tutto diventa bello, anche la banale foto che ognuno di noi può fare ai propri piedi quando sta in spiaggia. Ecco, questa è una sorta di consolazione per l'umanità, secondo te, quello di attraversare con un mezzo individuale di riproduzione del reale una dimensione onirica fantastica, quindi anche lo schifo in cui dobbiamo vivere diventa fantastico, diventa la dimensione poetica in cui felicemente noi esistiamo. Beh, io credo che sia una sensazione che forse è più legata al momento che a una durata nel tempo, nel senso che poi, come tu dicevi, i filtri di Instagram, no, fanno sì che poi tutte le foto sembrano uguali, per cui più che una riproduzione onirica, mi viene da, anche lì, da pensare a una produzione proprio da linea di produzione industriale. Ma la nostra estetica ormai è diventata un prodotto industriale, non ha più un suo valore individuale, chiaro che è così. Questo è evidente. Il filtro di Instagram dà una patina di passato, quindi diventa bello perché appartiene al passato anche quello che è il segno più indelebile dell'epoca in cui stiamo vivendo. Ci sentiamo tra un istante, mandate messaggi perché 50 ne vorrei avere a fianco a Bologna, se no chiamo 50 amiche bolognesi e poi chi si è visto si è visto. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Melog. Cronache meridiane. .800 24 0024. Io pochi minuti fa proposi agli ascoltatori di mandare a melgo@radio24.it delle foto di una loro, di un loro reperto industriale, volevano far passare alla storia rendendolo vivacemente poetico con la loro foto, perché chi avrebbe mandato questa foto mi avrebbe seguito. Ho 50 persone a disposizione, ma forse riuscirò a staccare qualche altro numero in più per andare a fare una visita al Festival della Fotografia Industriale che sarà a Bologna. Questa visita l'abbiamo fissata per il 14 ottobre, che è un mercoledì, alle 19:30. Ho detto mandate una foto senza speranza che la gente lo facesse. Beh, ho già circa un centinaio di persone che hanno mandato le loro foto, ve ne cito qualcuno. Fabio Cogo, Decadenza Agricolo Industriale, manda un reperto alla sua vita contadina. Guglielmo Poli, Sensazione Vestigia della Grattugia, non elettrica, una sua grattugia. Giulia Nonis, manda uno stabilimento Flore, dove hanno lavorato 800 persone, proprio la foto di quello di cui abbiamo parlato. Giuseppe Petringa, foto presenza industriale, è una foto che vede dal cortile di casa sua di Milano, è una presenza industriale. Poi Amelia Milardi, la gigantesca presa della presa fresa, l'acciaieria di Terni, collocata variopinta di fronte alla stazione. Poi Stefano Orlando Puracchio, Mirko Corrias, Roberto Calà, Gregorio Nocera, Serena Bergamo, Carlo Coppo, uno mi ha mandato delle foto di vecchi tubi dove scorreva una volta l'acqua davanti a casa sua. Beh, è fantastico, vedo che il sistema funziona. Velocemente, nei prossimi minuti analizzeremo queste foto, qualcuna ve ne descriverò, ma molti di questi verranno con me, io vorrei portarmeli tutti. Intanto vi faccio ascoltare una battuta che ho colto da François Hebel, che è il direttore artistico di Fotoindustria, che mi racconta, che risponde a alcune mie curiosità rispetto alla sua mostra, curiosità alle quali avete già risposto voi mandando le vostre foto. Le faccio una domanda su un possibile paradosso. Ci sono installazioni industriali, luoghi dedicati al lavoro che vengono considerati come un attentato all'ambiente. È possibile che l'occhio fantastico di un fotografo artista trasformi anche un ecomostro in una tragica immagine che abbia un valore artistico però? Questo è il paradosso della fotografia, già di fotoperiodismo. Ma è anche vero di tutta la fotografia di sì per la stampa è stata così una questione eternale di sì, sia una bella fotografia o una fotografia tragica. Ma qui abbiamo anche dei nuovi linguaggi, ad esempio David LaChapelle ha usato rifiuti tipo delle scatole di Coca-Cola o delle canucce o altre cose che ha trovato che erano rifiuti, per rifare un disegno d'industria che ha rifotografato con le sue luci incredibili che usa normalmente per la moda o il ritratto. E così ha fatto vedere un'allegoria dell'industria. E questo che facciamo vedere sono dei linguaggi fotografici molto differenti per parlare di quello che dice lei o le cose molto più positive. Quindi l'archivio fotografico in realtà trasmette al futuro, trasmette alla storia anche degli elementi che troviamo sgradevoli mentre li viviamo nella contemporaneità, poi quando li vediamo rappresentati in realtà ci raccontano quello che siamo stati. Sicuro racconta un punto di vista su quello che siamo stati o quello che siamo. E quello che è importante nel mondo è di confrontare punti di vista, e per quello che abbiamo delle esposizioni che sono lavori che sono stati fatti in ordine per le aziende, e che abbiamo altre esposizioni che sono fatti liberi dal fotografo per il suo punto di vista critico. E così che con la confrontazione di punto di vista, che con l'attenzione, che diventa interessante un programma. Le faccio un'ultima domanda. Oggi ogni essere umano dotato di smartphone ha diritto e possibilità di consegnare alla storia il suo punto di vista. Qual è la differenza? Che alcuni punti di vista poi possono passare in una rassegna fotografica e essere trattati da opera d'arte? Il problema dell'arte in generale, la fotografia si avvicina sempre di più della canzone. Uno può cantare sotto la doccia bene, male, non importa, perché è il solo da sentirsi. Un altro può andare a cantare all'opera. E la fotografia ormai è così, uno può fare delle fotografie per il suo piacere personale, ogni giorno ne facciamo tutti e altri lo fanno in modo professionale, ma le barriere cadono, perché abbiamo una mostra di una che non è mai stata fotografa, che ha fatto lavorare i più grandi fotografi nel mondo, è la editrice della fotografia del New York Times Magazine a New York, e quando si sono traslocati in nuovo edificio fatto da Renzo Piano, invece del vecchio edificio di Times Square, lei si è sentita male di non avere più il polvere, tutto il casino dell'edificio vecchio, tutto questo. E allora per entrare dentro questo bellissimo edificio di Renzo Piano, lei ha preso il suo iPhone, si è messa a fare fotografie. Lei, che non è mai stata fotografa, che ha fatto lavorare i più grandi fotografi del mondo, è diventata fotografa per necessità di capire dove lavorava ogni giorno, come in modo pazzesco, per produrre questo magazine del New York Times. E risolta un lavoro bellissimo che si chiama Office Romance, che è un lavoro che fra psicanalitico e poesia. Voi non sarete il direttore artistico del New York Times che con uno smartphone ha ridato senso alla nuova collocazione strafighetta di Renzo Piano, che a lei non piaceva, che mancava la polvere dei suoi vecchi uffici. Però state lavorando molto bene. Devo dire, sono arrivate veramente tantissime foto, le sto elencando, le stiamo classificando, faremo una photo gallery e la pubblicheremo sul sito di Radio 24 tra un po'. Molti di questi che hanno mandato le foto a melgo@radio24.it verranno con me a Bologna. Anzi, farò qualcosa di più, che non stava nei patti, non stava negli accordi di Radio 24, mi porto il mio proiettore portatile e contaminerò la mostra, bellissima, l'unica mostra della Festival della Fotografia Industriale a Bologna, con le vostre foto. Proietterò le vostre foto sulle foto degli altri. Voi direte che serve. Beh, bello, sarete anche voi espositori in una mostra d'arte, semplicemente per aver mandato una foto a Melog. Marco, buongiorno. Buongiorno, io dico che foto bellissime si riescono a fare benissimo, soprattutto gli impianti quando sono complessi, la siderurgia piuttosto che i petrolchimici, sono dei soggetti che sono molto facili da rendere artistici fotografandoli. Ma volevo fare un intervento perché non condividevo soprattutto un'equiparazione di quello che è stata la comunità dell'Olivetti con quelli che sono stati le strutture industriali che erano state fatte per le tessiture eccetera, soprattutto in Lombardia, quelle dove c'era il villaggio costruito intorno all'opificio, nel senso che trovavo molto più moderno e molto più umano la connotazione di quella che era la comunità Olivetti, nel senso che le persone restavano nei paesi dove erano nate, dove contaminavano con questa nuova cultura industriale il tessuto intorno e dove sorgevano nei paesi gli asili per essere vicini alle madri e alle famiglie, dove sorgevano le biblioteche per dare il supporto per la conoscenza in un modo molto più avanzato, che non mettere tutti quanti dentro alla stessa gabbia e farci il castelletto sopra con È molto chiaro, ma lei sa bene, poi tutta una grande iniziativa, un grande disegno illuminato, una preveggenza rispetto alle sorti dell'umanità, poi è tutto transeunte, tutto passa. Oggi di quel modello rimane soltanto il ricordo. Maria Luisa, buongiorno. Pronto, buongiorno. Allora, senta, io abito davanti all'ex ospedale Mayer, quello dei bambini, che è famoso perché da anni raccoglie anche bambini un po' vengono da tutta Italia per farsi curare. Ora, dov'è esattamente dove? Mi dica dove. A Firenze. Allora, cosa è successo? Che l'ospedale si è trasferito ed è in un bellissimo posto, a Careggi, nuovissimo, eccetera. E il vecchio, che è una struttura ottocentesca veramente molto, ma molto bella, è ormai chiusa e sta proprio andando in disfacimento. Potrebbe essere il set per un bellissimo serial televisivo dell'orrore, quelli fatti di mostri, di streghe e di assassini. Si spera di no. Però, senta Maria Luisa, lei sta a Firenze, ma perché non fa la foto e me la manda a mel@radio24.it? Così viene a Bologna. Cercherò di farlo, perché dal punto di vista tecnologico devo dire il vero. Tira fuori la sua vecchia Kodak e potrebbe farla lo stesso. Me la manda con un piccione viaggiatore. Va bene, sì, cercherò di farla. Comunque intanto la ringrazio, anche perché è vicino, che c'erano l'ex palazzina dell'Omni, sì. L'hanno messa a posto, adesso c'è il Donido e sono strutture veramente spettacolari. Benissimo, io sto spingendo moltissimo l'upgrade tecnologico dello zoccolo duro del nostro pubblico, ma vedremo cosa riusciremo a fare. Fra un istante c'è una pausa, poi con Giancarlo Liviano d'Arcangelo cercheremo di approfondire meglio gli stimoli del primo ascoltatore. Melog, cronache meridiane. C'è stato un momento, a metà degli anni 60 del XX secolo, in cui un'azienda italiana ebbe l'occasione di guidare la rivoluzione informatica mondiale, 10 anni prima dei ragazzi della Silicon Valley, Steve Jobs e Bill Gates. Una rivoluzione tecnologica che aveva le sue radici in una rivoluzione culturale e sociale, in un modello industriale pensato al di là di socialismo e capitalismo, che il suo promotore, Adriano Olivetti, aveva cominciato a sperimentare sin dagli anni 30, a Ivrea, in provincia di Torino. In questo asilo nido raccogliete i figli di tutti i dipendenti? Sì, dall'operaio al dirigente. 800 24 00 24, sta esplodendo la mia casella di posta elettronica, melg@radio24.it. Non dico banalità, baggianate o bugie, fra un po' ve le pubblichiamo le foto, facciamo una foto gallery. Questo mi fa riflettere sul fatto che in realtà è cambiato molto rispetto anche 5-6 anni fa, che facevo le grandi convocazioni, la notte dei mille, i 100 a vedere Picasso. Non c'era una così spiccata attitudine a usare la propria protesi immaginifica personale. Oggi tutti hanno uno smartphone e tutti hanno immediata possibilità di spedire una foto ovunque, e questo si vede. La radio in questo momento si è inventata una sorta di partecipazione iconografica. Il luogo della parola in realtà partecipa attraverso le foto. Sembra un paradosso. La radio in sé dovrebbe essere soltanto parole, è cieca. No, invece la radio è veggente. Quindi oggi sto discutendo sulle vostre foto. Partecipate a un programma radiofonico mandando foto, e questo ha un senso. Sarete premiati perché tra le vostre foto, che sono bellissime, una signora manda un Black & Decker però in posizione moscia verso il basso, una foto piena di metafore su quella che è la decadenza della protesi che dovrebbe rappresentare la vigoria per eccellenza. Continuano ad arrivare Ale Battisti, Anna Maria Pellegrino, Emanuele Pescina, Paolo Torri, Paolo Gallo, dico quelli che stanno mandando foto, la casella è in continuo aggiornamento. Giancarlo Liviano d'Arcangelo, ricordo, autore di Invisibile, La tua vera patria, edizione Il Saggiatore. Sull'appunto che aveva fatto il nostro ascoltatore, non ho ben capito, lui difendeva il modello Olivetti rispetto ad altri modelli, che era un modello paternalistico ambientale, qualcosa del genere mi sembra, per una sorta di transumanza organizzata degli operai che rimangano nel territorio dell'industria. Ma il modello di Adriano Olivetti aveva assolutamente dei lati straordinariamente positivi. È chiaro che non si può pensare che un'organizzazione industriale non abbia comunque degli elementi che la caratterizzano, no? Però in chiave assolutamente di recupero del territorio e soprattutto di espansione nel tempo di un modello industriale sostenibile, io credo che il modello olivettiano sia assolutamente importante e non abbia rivali. A Ivrea tutt'oggi ancora si sente l'eco di quell'esperienza e ci sono ancora delle eccellenze enormi nel campo informatico, ma anche in altri campi, che riescono a, come dire, a vivere e a recuperare l'esperienza di quel magnifico periodo legato alla figura di Adriano Olivetti. In particolare io sono arrivato lì seguendo le orme di un agente segreto della CIA che c'era stato subito nel primo dopoguerra, e ho potuto ricostruire chilometro per chilometro, metro per metro il sito di Ivrea. Ma perché era interessato l'agente della CIA? Scusi? Era interessato l'agente della CIA? L'agente della CIA naturalmente sondava, voleva capire che cosa avveniva in quel piccolo vetrino da microscopio, no? Voleva capire se bisognava stare attenti, se bisognava aiutare. Era lì per controllare politicamente. Era una sorta di esito inaspettato del piano Marshall. L'Italia non doveva organizzarsi in quella maniera, ma in altre maniere probabilmente. Esatto, era meglio se quel modello non fosse divenuto maggioritario, questo è evidente. Gianni, buongiorno. Buongiorno, io volevo parlare della mia esperienza, sono stato di recente in Cina. Ma c'è al viva voce, Gianni, al viva voce? Sì? No, non sì. Si può, viva voce è proibito, deve parlare col telefono, o si ferma se sta in macchina. Capito? Se no si sente malissimo, sente una voce che viene... Vabbè, parli, intanto parli, va, meglio sentirla che non sentirla. Dicevo, in Cina ho visitato uno stabilimento e il proprietario di questo stabilimento è stato molto orgoglioso di mostrarmi le case che aveva costruito per i suoi dipendenti. Quindi ritornano, c'è una sorta di ricorso storico rispetto a quello che succedeva nel nostro paese all'inizio del secolo scorso, cioè in Cina sta facendo le case per gli operai. Dice, ma sì, ma questo modello in Italia lo applicano i cinesi da tanti anni. È facile vedere i cinesi che dormono con una ciotola di riso e un pagliericcio sotto il banchetto dove cuciono borse, quindi sappiamo che loro ci tengono molto al benessere della manodopera e tenerla vicina alla macchina di lavoro. Si trovano interi garage, capannoni industriali, ci sono i cinesi ammassati accanto alle macchine nelle quali lavorano. Non credo che sia esattamente lo stesso punto di vista. Giancarlo Liviano d'Arcangelo. Beh, direi assolutamente di no, diciamo che mi sembrano punti di vista un po' diversi. È chiaro che poi non so se nel frattempo è arrivato una sorta di Adriano Olivetti cinese che invece è illuminato e vuole esportare magari un modello diverso, ma mi sembra poco plausibile, francamente. Senti, un ascoltatore mi scrive, la solita maestrina alla penna rossa, Nicoletti, non è arte, è marketing. È vero, parte delle foto di questa mostra sono le foto fatte nelle brochure di promozione delle industrie, che però almeno nei tempi passati erano fatte da grandi fotografi. Quindi l'industria è tanto più illuminata, tanto più affida a una mano felice il compito di immortalarla. Altre sono fatte semplicemente da altre persone. Perché c'è ancora questa distinzione tra arte e marketing, come se non equivalessero molte volte i due concetti? Beh, per quello che è il mio pensiero, nella stragrande maggioranza dei casi, nella modernità, le due cose sono strettamente collegate, magari non sempre in maniera diretta, ma se non altro per la finalità a cui i prodotti volgono, no? Anche perché oggi l'artista incompreso, l'artista sconosciuto, l'artista non individuato, la grande macchina del mercato non esiste. Se c'è un artista che vale, che ha un mercato, il mercato lo individua, questo è poco ma sicuro, e l'artista non capace di farsi marketing è un artista che rimarrà sempre prigioniero della propria presunzione di essere un incompreso. Io ringrazio Giancarlo Liviano d'Arcangelo, do l'ultimo avvertimento ai miei ascoltatori: io veramente sarò a Bologna il 14 ottobre, mercoledì alle 19:30, e avrò la possibilità di guidare un manipolo di 50 persone. Non so se riuscirò a staccare qualche altro numero, lo spero fortemente. Sono stato sovrastato dalle foto che mi avete mandato a melgo@radio24.it. Ne sono arrivate circa un 120, mi dici? più di 120 circa al momento, ma ne stanno arrivando continuamente. Le sta selezionando Fabrizio Intolti, che è un fotografo di fama internazionale, ha vinto premi prestigiosissimi. Parleremo con lui giovedì a Milano anche di una sua ultima opera, ma ve lo anticiperò alla radio. Adesso è venuto il momento di lasciare la linea. E quel saputello che mi dice coi cetrioli tu ci mangi, sì, lo so, infatti li celebro nella loro massima gloria. Viva il grande cetriolo!